Buongiorno Palestina. Come ogni mercoledì alle 19 siamo qui a darvi le informazioni più interessanti riguardanti la Palestina. Questa settimana vi diciamo subito che ci sarà una manifestazione sabato 15 febbraio in Piazza Strozzi alle ore 16:30 riguardante il piano Trump, un presidio contro il piano Trump per dire la Palestina non è in vendita. A questo presidio organizzato da Firenze per la Palestina partecipano le organizzazioni Asso Pace Palestina Firenze, Amicizia Italo-Palestinese, il CPA, la Casa della Pace, il cantiere Camillo Cienfuegos e anche il COSPE. A questo punto passo la parola a Claudio per la rassegna stampa della settimana e noi ci sentiamo più tardi. Ecco in breve la rassegna stampa della settimana passata. Il portavoce dell'esercito israeliano ribadisce che l'esercito continuerà a sparare anche ai bambini. Si tratta talvolta proprio di bambini di meno di 10 anni e che vengono colpiti alla testa. Colpa loro, dicono i soldati, perché noi spariamo in basso e loro sono di statura bassa. Denuncia la cosa Gideon Levi sul quotidiano israeliano Haaretz il 10 febbraio. Nella Cisgiordania, 4 palestinesi uccisi, un palestinese ucciso a Gaza. Negli Stati Uniti, primarie democratiche nello Iowa per individuare lo sfidante a Trump. La grande stampa, da noi come altrove, si è affrettata ad annunciare la vittoria di Buttigieg, che è sostenuto dalle lobby filo-israeliane miliardarie che hanno gestito anche la macchina elettorale. Pochi hanno detto invece che a vincerle è stato invece Bernie Sanders, con il 25% dei voti, contro il 21% di Buttigieg. Lo stesso ad avere 3 delegati in più per via del sistema di attribuzione dei delegati, che è un po' complicato. Luca Telese, su TPI, l'informazione senza giri di parole, che è il suo sito, denuncia come Roger Waters, leggendaria voce dei Pink Floyd, prima annunciato a Sanremo, sia stato poi improvvisamente cancellato dalla prima serata per le sue posizioni sul diritto all'indipendenza dei palestinesi. Il 5 febbraio è stato pubblicato un libro scritto da Sylvain Sipel, un ex giornalista di Le Monde. Ha pubblicato questo libro in francese che ha il titolo, tradotto in italiano, Lo Stato di Israele contro gli ebrei. È un libro in cui, tra le altre cose, si parla dell'emergere in Israele, e non solo, di una scuola scientifica, pseudoscientifica, insomma, che intende fare della genetica ebraica la giustificazione del sionismo, cioè del diritto storico degli ebrei a tornare alla propria terra ancestrale. Cioè si mettono insieme nazionalismo, sionismo e razzismo. Nel 2014, conviene ricordare, e lo ricorda il libro, si tenne a Tel Aviv un simposio accademico sul tema ebrei e razza, due punti, genetica, storia e cultura. Il fatto che si riprenda a parlare di razza senza vergogna fa davvero venire i brividi. Esistono istituzioni accademiche in Israele e negli Stati Uniti che ormai si dedicano alla ricerca del gene ebraico, cioè di una caratteristica genetica che non apparterebbe che agli ebrei. Impossibile non rammentare a questo punto che Hitler ricercò un fondamento genetico della razza ariana inviando una spedizione in Tibet. Quella vicenda da cui fu tratto, romanzato, il film con Brad Pitt. La parola passa a questo punto a Gianna. Thank you. proposito della manifestazione che ci sarà sabato 15 febbraio, ti chiedo Marisa, che cosa prevede il piano Trump? Ci puoi dare delle indicazioni più precise? Sì, certo. Il piano Trump in realtà è composto da tantissime, tantissime pagine e una sintesi è difficile, però cercherò di essere estremamente sintetica, tanto per delineare la politica che ne esce, e, dicendo innanzitutto una premessa, che forse ti sembrerà assurda, ma in tutte le cose bisogna vedere il positivo, cioè questo piano Trump nella sua scelleratezza, secondo me ha un punto positivo. E in che cosa consiste? Il fatto che per chi finora non sapeva, per chi sapeva e ha fatto finta di non sapere, per chi sapeva e ha taciuto, per chi sapeva e ha distolto e manipolato i fatti, quindi l'informazione, ecco, questo piano Trump riesce a gettare via la maschera che lo Stato di Israele si era messa davanti in tutti questi anni, perché non fa altro che stabilire senza cambiare lo status quo esistente e portando alla luce quello che in questi anni, fra una notizia e l'altra, nascosta o comunque confusa con tutte le informazioni che ci arrivano, erano già cose avvenute. Faccio riferimento ad esempio a un punto, quello in cui si dice che Gerusalemme sarà la capitale dello Stato di Israele, in quanto Gerusalemme è una e indivisa. Ecco, ricordo qui che già nel 1980 il Parlamento israeliano aveva proclamato in maniera unilaterale Gerusalemme una e indivisa. E a quell'epoca il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 478, aveva dichiarato la legge nulla e priva di validità, perché in violazione del diritto internazionale e quindi un ostacolo alla pace nel Medio Oriente. Un altro punto importante è che si stabilisce l'annessione quasi immediata da parte di Israele della maggioranza delle colonie della Cisgiordania occupata. Ora, la maggioranza perché le colonie sono definite illegali per le Nazioni Unite in tutte le risoluzioni dell'ONU. Per Israele, anche per Israele, una parte di queste colonie è illegale, pensa un po'. E, il muro che è stato costruito nel 2002 per andare a inserire queste colonie che si erano infiltrate, che si sono infiltrate nella Cisgiordania, ha cercato di appunto portarle dentro lo Stato, quindi pensa, è riuscito a entrare fino a 10 km di penetrazione nella Cisgiordania, andando oltre la linea della Green Line, che è quella che era stata definita con l'armistizio del 49, quindi nella sua lunghezza di 712 km, così facendo ha confiscato già un 11% della terra palestinese. E allora, quando si parla che si creerà uno Stato palestinese sull'11% della Palestina storica, in realtà questo non fa altro che sancire la situazione attuale, lo status quo, cioè non vengono ridefiniti i confini, non si parla di smantellamento di colonie, perché? Ecco, qui voglio fare un percorso storico. Nel 1947, con la risoluzione 180 del 29 novembre, era stato destinato il 56% a Israele, il 42% alla Cisgiordania, al popolo palestinese, e il 2% a Gerusalemme, definita città internazionale. Nel 1948, con la Nakba, Israele si prese un'altra bella pa parte della Palestina, arrivando fino al 78%. Quindi era rimasto quel famoso 22% sul quale si cercava di trovare un accordo in quei tempi, ma nel 67 Israele occupa tutta la Cisgiordania, Gerusalemme Est, Sinai, poi Gaza e Golan. Da questo 78, con quello che ho detto prima, che già è stato roso dal muro, l'11%, cosa voglio dire? Che nel momento in cui si dice che uno Stato palestinese sarà costituito sull'11% della Palestina storica, voglio dire che in realtà appunto viene sancito lo stato attuale, di fatto. Poi, questo territorio dovrebbe ed è già in realtà diviso in tante enclave, perché la presenza delle colonie israeliane ha distanziato i villaggi palestinesi, l'ha separati, ha messo le famose bypass road, cioè strade a esclusivo passaggio degli israeliani, e quindi questo territorio è già diviso, e si potrebbe parlare di enclave, di Bantustan, con confini, territori marittimi e aerei che sarebbero comunque in mano allo Stato di Israele. Che cosa sono i Bantustan? Cioè, puoi spiegare? Ah, sì. Vabbè, Bantustan viene da... Anche questo è un termine storico, perché si riferisce ai territori del Sudafrica e della Namibia assegnati alle etnie nere dal governo sudafricano all'epoca dell'apartheid. Parallelo interessante. Poi un altro punto che metterei in evidenza è che la moschea di Al-Aqsa in Gerusalemme diventerebbe di proprietà dello Stato ebraico. E i musulmani potrebbero andare a pregare solo col permesso delle autorità israeliane. E Al-Aqsa è la moschea che si trova nella spianata delle moschee. Certo, sì, è la più importante di Gerusalemme. Poi un altro punto che fa capire quanto sia veramente usato in maniera non consona quando si parla di Stato palestinese, e che a questo Stato non viene prevista nessuna sovranità, e non viene previsto neppure che si doti di un esercito. Una sovranità formale, appunto, non uno Stato. Forse neanche quella. Poi si sancisce che ci debba essere il riconoscimento di Israele come uno Stato ebraico. E qui questo discorso dello Stato ebraico è venuto fuori in maniera, senza ombra di dubbio, in maniera palese, con la legge del 2018, di 2 anni fa, a luglio del 2018, Israele, il Parlamento israeliano ha varato questa legge chiamata legge delle Stato-Nazioni, nel quale praticamente si scinde le due definizioni, cioè te sei cittadino israeliano, sì, ma la nazionalità può essere ebrea, se sei ebraica, sì, c'è scritto proprio ebreo, oppure sì. Arabo, druso, circasso, cioè viene fatta la separazione fra cittadinanza e nazionalità. Quindi, per farti un esempio, i palestinesi che stanno nello Stato di Israele sono cittadini israeliani, ma non hanno nazionalità ebraica, sono arabi, e quindi non hanno i pieni diritti che godono invece coloro che hanno cittadinanza e nazionalità, nazionalità ebraica, cittadinanza israeliana, e quindi questo fa di Israele uno Stato etnocratico. Sì, discriminatorio, e già si parla di apartheid. Cioè, uno Stato è di esclusivo uso e appannaggio e proprietà di chi professa la religione ebraica. Poi si richiede lo smantellamento completo di Hamas, e poi veniamo all'annosa questione di diritto di ritorno dei rifugiati. Allora, viene decretato che il ritorno per i rifugiati palestinesi non esiste. Non c'è nessun diritto da parte loro al ritorno, E cosa potranno fare quindi? Ma potranno integrarsi negli stati in cui già risiedono o stabilirsi in un altro stato. Quindi un Quindi disconoscimento totale delle un risoluzioni ONU, non non riconoscimento, riconoscimento. direi, del diritto di ritorno per i rifugiati palestinesi. E poi c'è un'altra questione, mi sembra il caso tra i vari punti di citare, è quella di Gaza. Perché Gaza si trova appunto lungo il litorale, già divisa dalla Cisgiordania, ecco, anche qui viene comunque confermata la non continuità fisica fra Striscia di Gaza e Cisgiordania, in quanto, se vogliamo dire, il collegamento previsto da questo piano si configurerebbe attraverso un tunnel sotterraneo di 80 km. Il piano Trump che ci hai presentato pone veramente delle condizioni inaccettabili per il popolo palestinese. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Sì, Gianna, hai ragione, sono condizioni veramente inaccettabili perché questo piano nega i diritti fondamentali ai palestinesi e riduce le prospettive di una soluzione giusta e duratura. L'annessione di parte della Cisgiordania, poi, aggraverebbero ulteriormente il rischio di trasferimento forzato di famiglie e comunità palestinesi, che hanno già subito nei vari decenni questa situazione. L'annessione del territorio palestinese prevista dal piano nega la realizzazione del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, diritto inscindibili dall'identità di un popolo, e quindi lo condanna, lo condanna a uno stato permanente di discriminazione e di dipendenza. È inaccettabile perché sotto l'occupazione militare israeliana i palestinesi, sia in Cisgiordania che a Gaza, si vedono da sempre negati diritti e libertà fondamentali e continueranno ad averlo, cioè la mancata libertà di movimento, di accesso ai beni e servizi essenziali, l'assistenza sanitaria, l'acqua, i servizi igienici e quant'altro, la sicurezza alimentare, il lavoro, lo sviluppo economico, che anche questo è un discorso veramente che mina l'economia proprio palestinese, il mancato sviluppo economico dovuto al fatto dei limiti di importazione e di esportazione che decreta Israele sui beni palestinesi. Nell'ultimo anno, ritornando al discorso anche di Gerusalemme, c'è stata una evacuazione veramente forzata e forzosa, un'escalation di questa evacuazione proprio a Gerusalemme Est, che ha visto interi quartieri demoliti per l'espansione delle colonie israeliane, e così anche nell'area C che gli accordi di Oslo del 93-95 avevano destinato a territorio sotto controllo militare amministrativo israeliano. E quindi questo piano non fa altro che accelerare questo trend. Si sono levati un coro di no su questo piano da parte sia dell'autorità nazionale palestinese e delle altre forze politiche. Ecco, secondo me in questo momento è arrivato veramente il momento per il popolo palestinese di ritrovare la mancata unità. L'unità che in questi anni è venuta meno, diciamo, dalle elezioni del 2006 di Hamas, no? Nel quale c'è stata la divisione fra Fatah e Hamas. Ci dovrebbe essere di nuovo questa compattezza di fronte a questo piano, perché l'autorità nazionale palestinese negli anni ha dimostrato veramente una mancanza di autonomia, una totale dipendenza poi dal governo israeliano, purtroppo così è stato. E quindi forse l'OLP potrebbe, se si rafforzasse, se ritrovasse una linea politica condivisa, potrebbe dare al popolo palestinese, a questa gente che in parte è stata anche, come dire, abbandonata per questa scissione del potere, diciamo, governativo palestinese, potrebbe dare la possibilità di avere delle chance, possibilità di riscatto. Ma tu pensi veramente che questa dicotomia che si è creata appunto nel potere, diciamo, della Palestina, i due poteri principali, Hamas e l'autorità palestinese, abbiano in un certo senso favorito, o perlomeno non, diciamo, non hanno opposto alternative a un eventuale, appunto, come abbiamo visto, piano presentato da Trump, diciamo che. Ora, detto così, che potrebbe, diciamo, no, non dico averlo favorito, ma perlomeno avergli lasciato libero il campo di proporre, diciamo, anche in modo univoco, senza convocare la controparte che è interessatissima a questo suo piano. Trump ha fatto, diciamo, tutto da solo, con Netanyahu ovviamente. La storia si ripete, perché anche nel 49 il piano di spartizione della Palestina fu deliberato senza interpellare i palestinesi. Indubbiamente la storia si ripete, cioè, cosa voglio dire? Dividi e impera. Dividi e ti impera. Israele è stato ben contento, e anzi ha cercato sempre più di aprire il varco in quella spaccatura avvenuta dopo le elezioni del 2006, proprio perché questo minava la forza e la compattezza che il popolo palestinese poteva aver avuto negli anni di esistenza dell'OLP. Già era stato, diciamo, indebolito con con l'autorità nazionale palestinese che discende dagli accordi di Oslo, che all'inizio aveva fatto pensare a una ripresa, no? Una vigoria di autonomia e di gestione della situazione palestinese, quando invece poi si è risolta in una... Nulla di fatto. Nel senso che l'autorità nazionale palestinese è diventato un fantoccio, un apparato burocratico che in realtà non ha fatto altro che mettere in atto gli accordi di Oslo, ma poi si è trovato sempre più stretto le mani. E quindi indubbiamente questo piano di Trump scende in un periodo, in una fase in cui c'è una debolezza, forte, dall'altra parte. Si sente libero Trump e Netanyahu, si sono sentiti liberi di poter proporre delle cose improponibili. Ecco, già posso dire, c'era stato in precedenza il tentativo di fare di Gaza, per esempio, uno stato indipendente, mi pare, concordi, sì, alcuni anni fa c'era una proposta, diciamo, ecco, dal governo israeliano, che riusciva così, appunto, secondo la logica del dividi e ti impera, in questo caso a maggior ragione poteva porre le proprie condizioni. Passiamo ora a un altro stacco musicale e poi riprendiamo. Allora, no al piano Trump è il titolo della manifestazione che ci sarà sabato in Piazza Strozzi. a cui, anzi, diciamo a tutti eventualmente di partecipare, ma organizzata dalle organizzazioni che si occupano principalmente di Palestina. Ma che cosa chiediamo, Marisa, noi con questa manifestazione sabato? Cosa andiamo a... Sì, questa scesa nella piazza è fatta perché chiediamo quello che forse lo ripetiamo da sempre, ma lo chiediamo con più forza adesso. Primo, chiediamo il rispetto dei principi del diritto internazionale e l'applicazione di tutte le risoluzioni ONU che sono state sempre disattese da Israele, che è stato condannato anche per le politiche di oppressione di Israele, però al quale non è stata mai data una sanzione. Poi scendiamo in piazza per la fine dell'occupazione sionista in tutta la Palestina e Gerusalemme, perché in particolare decisa come capitale, e non va bene. Terzo punto, qual è? L'applicazione del diritto al ritorno dei profughi palestinesi. È un diritto che viene gridato da ogni parte dei paesi in cui si sono rifugiati i palestinesi. Io sono andato ultimamente a settembre scorso in Libano e ti assicuro palestinesi di Sabra Shatila e di altri, ce ne sono 12 in Libano, e ti assicuro che il grido silente e l'urlo inascoltato che veniva fuori era proprio questo del ritorno, il diritto al ritorno. Poi la fine dell'embargo nella striscia di Gaza, che come ben sai è una tomba a cielo aperto, sì. Una tomba scoperchiata, cosa si può dire? Un campo di concentramento. Sì, un carcere a cielo aperto. Chiediamo il diritto di autodeterminazione di questo popolo, al quale appunto è stato negato da sempre. Chiediamo la libertà di tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi. E ricordo che nelle carceri israeliane ci sono anche bambini. Detenzione amministrativa. Poi chiediamo il boicottaggio e l'isolamento di Israele da parte di istituzioni, stati arabi e anche non arabi, e che la comunità internazionale veramente si facesse sentire in maniera incisiva. Chiediamo la fine degli accordi di cooperazione militare e di rapporti economici di scambio tra Italia e Israele. E su questo, una delle prime trasmissioni, parlai proprio del rapporto del Sesamo, di questa lettera sottoscritta dai docenti universitari che erano contrari al fatto che l'università di Ariel, che è una colonia diciamo storica, i titoli usciti da questa università fossero preparati come titoli accademici e come nelle università israeliane. Questo è un esempio positivo, no? di stacco e di denuncia, ricordiamoci che rapporti economici di scambio culturale fra Italia e Israele ci sono in maniera invece proficua per quanto riguarda anche l'industria delle armi, purtroppo e sì. Quindi appunto chiediamo la fine di questi accordi di cooperazione, e sperando che a questa manifestazione vengano tante persone interessate a sapere, a conoscere, a stare accanto a noi. Vi aspettiamo numerosi alla manifestazione di sabato 15 in Piazza Strozzi alle 16:30. Ringrazio Marisa per il suo intervento e con questo vi salutiamo e ci risentiamo mercoledì prossimo. Salutiamo Inshallah. Inshallah.